la storia risponde. Noi leggiamo e cambiamo un po' il testo. Tra Marx, Freud e letto disfatto, ogni generazione aggiunge il suo gesto.